Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800240024 è una domenica ricchissima di spunti, questa che non si è ancora conclusa perché manca all'appello il posticipo della Serie A, Atalanta-Genoa, poi manca all'appello quello che sta accadendo in questi minuti nella Liga e nella Premier League, perché oggi parleremo molto anche del calcio internazionale. C'è il dramma sportivo del Liverpool che ha perso pochi istanti fa con il Chelsea di Mourinho, un dramma sportivo perché oggi era il giorno per vincere la Premier League per la prima volta, tornare al titolo inglese dopo 24 anni, e invece i Reds sono caduti proprio sul traguardo e sono caduti per un errore del loro storico capitano Steven Gerrard. Premier assolutamente apertissima, ma a questo punto è più probabile che la vinca il Manchester City piuttosto che il Liverpool. Poi c'è la Serie A, i risultati li avete sentiti nella volata Europa League: il Parma che ha perso, Verona, Lazio e Torino che hanno vinto e sono pienamente in corsa, hanno scavalcato il Milan, che è l'altro tormentone di questa domenica, insieme a Balotelli. Per la lotta a salvezza invece tutti fermi. Poi c'è la polemica tra Conte e Garcia. Io intanto saluto e ringrazio Federico Casotti, responsabile di Golcom nella redazione italiana. Ciao Federico. Ciao Giovanni, buona domenica a tutti. Convocatissimo per aiutarci in questa domenica, lo ripeto, ricca anche di storie bellissime che vengono non dalla Serie A. Ciao Carlo Genta. Ciao a tutti. Dramma sportivo, il 5 maggio del Liverpool. Io so che tu oggi hai tradito la Serie A per la partita di Anfield. Ma assolutamente, anzi ti dirò di più: di tanto in tanto tradivo anche la partita di Anfield per guardare la Moto 3, in cui ha vinto un italiano, Romano Fenati. Anche questa è una grande notizia, perché si inserisce, non è calcio, ma si inserisce in una domenica di sport interessantissima. Serie A oggi, vabbè, frattaglie, insomma, con tutto rispetto per chi c'era. Nulla di interessante. Sì, invece è meravigliosa la storia, meravigliosa anche se crudele la storia di Anfield. Lo ripetiamo, Liverpool che oggi probabilmente con la vittoria, ma anche forse con un pareggio, Federico, avrebbe messo una mano e mezza sulla Premier League, e invece ha perso 2-0 per il Chelsea. Tutti da vedere i gol: il primo, uno scivolone incredibile di Gerrard che ha spalancato la porta a Dembaba solo davanti al portiere, gol dell'1-0, poi a tempo praticamente scaduto, contropiede 2-0, avrebbe potuto segnare il Nino Torres, pensa che incrocio sarebbe stato troppo, e invece ha segnato William per il 2-0. Carlo, queste sono storie belle, il pubblico di Liverpool che ha finito cantando You'll Never Walk Alone malgrado la sconfitta. Vabbè, questo sì, ma perché fa parte di quella cultura, di quei luoghi, e tutte le volte stiamo a sorprenderci, a meravigliarci, quasi a commuoverci. La partita è stata meravigliosa, poi direi dedicata ai detrattori di Mourinho, no? A tutti quelli che in settimana, a quelli che in settimana è il catenaccio, è Mourinho, è il culo e tutte queste storie. Oggi ha fatto grosso modo quello che aveva promesso, cioè ha messo i giocatori. Un paio di ragazzini, giocatori che saranno squalificati, come Lampard in Champions League e come Obi Mikkel, naturalmente il centravanti di riserva, cioè Dembaba, insomma le seconde linee. Partita meravigliosa del Chelsea, questo è il segno del fatto che quando hai un grande allenatore, quando hai una grande squadra, quasi puoi prescindere dagli interpreti. Poi alla fine il gol di Torres, cioè il gol che ha chiuso la partita, quello di Willian, è stato un assist, gentile concessione di Fernando Torres, figurati, lui torna lì, può segnare il gol del 2-0 e andare a festeggiare, invece regala. Sì, sarebbe stato il delitto perfetto. Comunque avremo modo di parlarne, io lo dico agli amici a casa, poi torneremo su questo Liverpool-Chelsea, spettacolo meraviglioso, Manchester City che adesso è chiamato a vincere contro il Crystal Palace, gara che inizia fra pochi minuti. Però questa mattina, Carlo, l'elettroshock, leggendo i giornali, ufficialmente aperto il caso Balotelli nazionale, merita o no il posto in Brasile, perché lui sì è Immobile, che tra l'altro oggi ha segnato, oppure Destro, oppure Toni, che oggi ha segnato, perché lui no. Io te lo dico, i segni erano chiari, noi l'abbiamo detto un paio di mesi fa, così Balotelli non serve alla nazionale, secondo me questo sarà il tormentone. Io so che tu difendi Balotelli a prescindere. Sì, ma a prescindere. Quindi difendilo anche oggi, se hai la possibilità di farlo. Ma ragionevole. Ma non c'è niente di ragionevole, Carlo. Ma ragionevole, ma no, è il più forte attaccante italiano, è quello che ha più talento. Poi gioca male una partita, questo stronzo ha giocato male una partita e mandiamolo fuori dalla nazionale. No, ne ha giocato male tante, Carlo, compresa quella di ieri sera. Ma in quale squadra? In una squadra. Ma è stato lui per primo a dire che non è un top player. Te lo faccio sentire, venerdì sera. Tu pensi veramente che tu sia un fuoriclasse? E come io l'hai dimostrato? Io penso di essere un giocatore normalissimo. Non ho mai detto di essere un fuoriclasse. Siete voi che parlate di questo. Devo essere un fuoriclasse, ci vorrà tempo e basta. Siete voi che parlate sempre fuoriclasse, non fuoriclasse. Vi aspettate sempre 5 gol da male. Noi speriamo che Maturana... Si può giocare anche male, bene, non c'entra niente. È o non è un top player, Carlo Balotelli? Ma cosa intendiamo per top no, player? Io uno dei migliori attaccanti del mondo. Io dico che è l'attaccante italiano, che è il giocatore di maggior talento in Italia, che è il più forte attaccante italiano. Io dico non in questo momento. Oggi Corriere dello Sport ha fatto una classifica, il 21esimo attaccante in Europa, nel mondo, come forza, Federico Casotti. Magari non 21esimo. Basta, sono classifiche sempre abbastanza opinabili. Io personalmente la penso abbastanza come Carlo, cioè io non metto in dubbio il fatto di portare un Balotelli al mondiale. Sicuramente ha senso nella testa di Prandelli pensare a un piano B, perché il Balotelli di Roma, il Balotelli delle ultime settimane, è un giocatore che... Diciamo il Balotelli degli ultimi 10 mesi, perché diciamo... guardate che le partite da 7 si contano. Io domani dopo facciamo anche l'elenco. Balotelli circondato come tutto il Milan, come Seedorf, da un silenzio assordante. Vi faccio sentire il telefonino di Mino Raiola oggi per tutta la giornata. Le téléphone mobile Orange de votre correspondant n'est pas accessible à cet instant. Nous vous invitons à rappeler ultérieurement. Rispondeva francese, secondo me era suo show a vedere il Paris Saint-Germain, che tra l'altro Federico non ha vinto la Ligue 1, lo farà probabilmente fra una decina di giorni. Silenzio assordante, Carlo, se non parla neanche Raiola per difenderlo. Ma non mi sembra che ci sia bisogno di difenderlo, cioè nel senso che cosa c'è da difendere? È un giocatore, non diciamo niente di Kakà, sparito nelle ultime settimane. Però Kakà, vabbè. Ma secondo te non è un caso, Carlo, che venerdì sera abbiano passato Balotelli a 3 grandi ex calciatori, perché Boban e Panucci li sono stati, anche Marocchi al suo palmarès, e i 3 l'abbiano fatto a pezzi, con critiche tecniche, no, tattiche, non è un caso? Secondo me non è un caso, secondo me è un errore grosso della comunicazione del Milan, perché tu lo vedi, è un giocatore chiaramente in quel momento lì arrabbiato, chiaramente in quel momento lì esposto, ma tu non lo devi mandare, non è questione di fare a pezzi, sai, con le parole sono bravi tutti, no? Sono lì seduti. Poi è chiaro che è questo che dice a Marocchi, che ha giocato 1 miliardo sì, di partite. Io sottoscrivo però tutto quello che gli ha detto Marocchi, tutto quello che gli ha detto Boban, Federico. Credo che venerdì sera Balotelli non sia uscito benissimo dal confronto. Ripeto, quello era uno spogliatoio, era lo spaccato di uno spogliatoio, non c'era più la mediazione giornalistica. Ma il dato che emerge di Balotelli è che noi abbiamo in mente in chiave mondiale il Balotelli dell'europeo, il Balotelli che ti stende la Germania con 2 invenzioni praticamente che da solo. 2 partite, con l'Inghilterra e con la Germania. Esatto. Perché poi per il resto anche l'europeo non fu una cavalcata. Sì, c'è quel bel gol con l'Irlanda e poco altro, ma il dramma è che adesso non si ha la sensazione che in questo momento Balotelli ti possa produrre quel tipo di giocate al mondiale. Poi magari lo fa, perché sappiamo che è imprevedibile e capace di fare tutto il suo contrario. In questo momento però ci si chiede se Balotelli sia migliorato oppure no rispetto a 2 anni fa, e il dubbio che non sia migliorato è abbastanza concreto. Intanto City vince 1-0 contro il Crystal Palace, quindi in questo momento City che si avvicina ulteriormente al Liverpool in testa alla classifica. Carlo, stai lì, perché poi ti devo far sentire la polemica del giorno, quella tra Conte e Garcia, però c'è il traffico. Se lei mette una mela marcia dentro lo spogliatoio può infettare anche tutti gli altri. Balotelli è una persona che io non accetterei mai facesse parte dello spogliatoio del Milan. Convocati. Il gol del Manchester City di Dzeko al 4° minuto, quindi in questo momento la classifica dice Liverpool 80, Chelsea 78, Manchester City 77, ma il Manchester City ha sempre una partita da recuperare. In Premier decide la differenza reti, in questo momento la differenza reti del Manchester City è più 57, quella del Liverpool più 50, ma continueremo a seguire sia il City che le vicende di Liverpool-Chelsea. Mi fa impazzire chi scrive al 349-238-6666 che Balotelli è il massimo, guai chi lo tocca, chi lo critica è razzista. Io critico il fatto che Balotelli sta facendo una stagione che non giustifica la chiamata mondiale. avremo tempo di parlarne. Poi arriva anche Pierluigi Pardo dalle 18. Carlo, ti faccio sentire Conte contro Garcia. Lo trovo anche una grandissima mancanza di rispetto nei confronti degli allenatori che devono scegliere formazioni, nei confronti dei calciatori che devono scendere in campo. Lo trovo anche rispettoso nei confronti dei tifosi, perché io non penso che i tifosi del Livorno o del Bologna o dell'Inter o chi per esso possa arrivare allo Juventus Stadium e pensare che la propria squadra non si impegna. Oh, questa è la risposta di Conte a Garcia, che aveva detto: spero che il Sassuolo si impegni, perché in tanti contro la Juve non l'hanno fatto. Carlo? Ci sta, beh, ci sta la replica di Conte, ha ragione. Cioè, poi a me piace, mi piace la dialettica, quindi, quindi Conte fa bene, secondo me, a dire quelle cose. Ripeto, le ultime partite di campionato sono abbastanza così, no? Una kermesse per molte squadre. Si è detto, ah, l'Udinese contro la Juventus non ha giocato abbastanza, vero, non ha fatto la sua miglior partita. Sì, anche l'Atalanta con la Roma, perché si può allargare. Ma di fatto ho trovato partitone. Abbastanza sterile, Carlo, la polemica di Garcia. Cioè, secondo me Garcia, che certamente ha fatto una stagione straordinaria, questa poteva anche risparmiarsela, chiedo anche a Federico. Sta usando tutte le armi che ha per così, no? Anche quelle psicologiche, anche quelle dialettiche, sta usando tutte le armi che giustamente tutte le armi che possiede per mettere pressione alla Juventus, agli avversari della Juventus, eccetera. Quindi anche il discorso di Garcia può starci in questa in questo mind game tra i due, quindi non secondo me poteva risparmiarselo, Federico. Sì, anche secondo me vale proprio il discorso del parallelo, insomma, Roma-Atalanta, Roma-Parma, penso anche che non siano state molto diverse da altre partite della Juventus. Io credo che scatti poi un meccanismo magari nelle squadre sfavorite, un po' come quando nella Liga negli ultimi anni giocavano contro Real e Barcellona, dandola quasi già per persa nella tabella di marcia. Sì, a me non era piaciuto ad esempio Spinelli nella vigilia di Juventus-Livorno, però sono dettagli. Poi fra Juventus e Livorno ci sono 70 punti, probabilmente avrebbe vinto, insomma, a prescindere. Saluto Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport. Ciao direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Questa mattina velenosissimo su Twitter, proprio a proposito della questione di Conte. Vi faccio sentire un altro passaggio della polemica di Conte su Garcia. Sono rimasto sorpreso, ecco, dalle dichiarazioni di Garcia, perché le ho trovate molto provinciali sotto tutti i punti di vista, e andando un po' indietro, se sommate agli aiutini, le posso catalogare, ecco, nelle chiacchiere da bar, così come avevo catalogato gli aiutini, no? Direttore Oreggio, tu hai scritto questa mattina: Conte assomiglia sempre più a Mourinho, anzi a livello tecnico è forse meglio. Risposta mi sembra molto studiata dal punto di vista della comunicazione. Ma assolutamente sì, mi sembra che Conte si ispiri sempre di più a Mourinho, che quindi ispirarsi a uno dei migliori allenatori che c'è al mondo, forse il migliore. Mi pare che anche a livello mediatico ci stia provando, si piglia sempre lui tutto sulle spalle, e non vedo la società che esca allo scoperto. C'è sempre Conte che ci mette la faccia, come faceva Mourinho. Io adesso non posso dirlo specificamente per quanto riguarda il Real Madrid e il Chelsea, ma qui quando allenava l'Inter spesso era lui che, insomma, mostrava il petto per proteggere la squadra. Sì, e ti dico per conoscenza che spesso non apprezzava nemmeno il fatto di essere lui a doversi esporre. Non so cosa ne pensi Conte, ad esempio, sul sostegno della società, dei dirigenti in questo momento. Non lo so, forse bisognerebbe chiederglielo. Detto questo, io credo che assolutamente sia nel gioco delle parti fare quello che sta facendo Conte e quello che sta facendo Garcia. Io di tutte le cose che contesto a Conte, quella principale è aver detto insomma ne potevamo fare a meno di Garcia nel campionato italiano. Non è vero, Garcia è un elemento in più, è un plus per il nostro campionato, ha portato qualcosa di nuovo, di diverso, sta facendo giocare la Roma in maniera straordinaria, e grazie a Garcia se questo campionato non è morto e sepolto da settimane, ma insomma vive ancora con queste piacevoli tensioni. Sì, anche se forse io, questo è il mio parere, questa polemica poteva anche risparmiarsela. Carlo, prima di salutarti, di sicuro non ha preparato il terreno per un Roma-Juventus tranquillo, ripeto, 9 maggio, appuntamento che forse varrà ancora per qualcosa, o forse nulla, sarà soltanto un amichevole di lusso, Carlo. No, amichevole di Musso non credo, perché a prescindere dalla classifica la Roma ci terrà a, in ogni caso, a mettere quella bandierina sulla sua troverà squadra. Troverà un bel ambientino, sì, non c'è dubbio. Beh, però, guarda, io condivido in tutto e per tutto, ma l'ho detto prima, quindi abbiamo detto più o meno le stesse cose quanto ha detto Vittorio Reggio, cioè è una cosa che ci sta tra due le parti. Garcia usa tutte le armi psicologiche che ha per mettere pressione alla Juventus e ai suoi avversari, e Conte giustamente difende la sua squadra. Trovo anche normale che sia un allenatore che va a parlare una volta a settimana a prendersi questo ruolo, come fa Conte, come faceva Mourinho, e viva gli allenatori che finalmente parlano e non dicono le solite banalità. Cioè, ne vorrei avere di più di allenatori così, che, ma al di là degli spunti giornalistici, di allenatori così che ogni tanto dicono qualcosa, che possono anche scazzarsi mediaticamente, va bene. Poi è chiaro che Garcia ce l'abbiamo, ce lo teniamo stretto, perché la Roma è il miglior spettacolo calcistico italiano. Sì, strettissimo, il mio giudizio è evidentemente è soltanto limitato a quest'ultima parte, a questa polemica. Grazie Carlo. A voi, ciao. Ciao Carlo. Chiedo invece al direttore Vittorio Reggia, che ha sottolineato anche questo aspetto questa mattina, cioè dell'ambiente che si andrà a preparare, ed evidentemente che Conte non teme per la partita dell'Olimpico. Beh sì, penso che Conte si sia messo nella condizione di dover battere il Sassuolo domani e di poter poi vincere, dover poi vincere con l'Atalanta la settimana dopo e arrivare a Roma con lo scudetto già cucito sul petto. Non succedesse questo, io penso che la partita di Roma diventerebbe davvero incredibilmente incandescente, ma già così sono d'accordo con Carlo, insomma non sarà una passeggiata di salute, giustamente. È chiaro che, lo ripeto, Conte usa le sue armi, Garcia usa le sue armi, come Mourinho usava le sue armi. Siamo di fronte a tre allenatori, a mio avviso, bravissimi, ottimi, ciascuno con un proprio background, ciascuno con una propria esperienza, però io penso che anche queste situazioni formino un grande allenatore. Sì, scrivono gli amici, è probabile che per la Roma il vero obiettivo di quella partita sia impedire comunque alla Juventus di arrivare a quota 100, e va bene anche così. Poi c'è chi scrive Max da Udine, Garcia dice boiate, è la disperazione del perdente, è vero il contrario, contro la Juventus fanno tutte la partita della vita, vedasi la Fiorentina, e poi via via, insomma, tutti i nostri amici che si stanno esprimendo. Per chiudere, direttore, oggi mi sembra che Conte abbia ribadito lo scudetto, il nostro obiettivo primario, poi il resto si potrà vedere dopo. Io devo dire, faccio ammenda, aveva ragione Conte, perché 2-3 settimane fa in tanti dicevano, io per primo, queste partite si possono anche un po' mollare, tanto lo scudetto è vinto. Il cammino della Roma dice che aveva ragione Conte a non mollare nulla da nessuna parte. Beh sì, devo essere altrettanto sincero, io credo che se la Juventus a 4 giornate dalla fine, 4 perché deve ancora giocare la partita di domani, con 5, in teoria 8 punti di vantaggio, dovesse perdere questo scudetto, insomma, penso che se ne parlerebbe dei secoli, perché si è messa nella condizione ideale per vincerlo. Detto questo, lo ribadisco, onore alla Roma, una grandissima Roma, con una qualità straordinaria, a tenere vivo questo campionato e fare in modo che anche la partita di Sassuolo, che altrimenti diventerebbe una pura formalità, sia invece una partita di pallone con un allenatore come Conte, che oggi ha dovuto esporsi in una certa maniera. Insomma, la Roma ha avuto il merito di trasformare Sassuolo-Juventus in una grande partita e non in una partita di allenamento in vista del Benfica. Sassuolo-Juventus, poi Juventus-Atalanta, poi c'è il confronto. Grazie direttore. Grazie a voi, buona continuazione. Grazie a Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport. Federico, intanto domani non gioca Vidal, ma questo oramai è diventato un caso, dovrebbe giocare Tevez, perché così ha detto Conte, poi vedremo se giocherà Barzagli. Mi pare di aver capito che non ci sarà turnover, perché la Juventus non se lo può permettere arrivati a questo punto. Fondamentalmente no, anche perché il Sassuolo, a maggior ragione dopo la sconfitta del Bologna di ieri, ha la possibilità di riuscire a riagganciare in maniera definitiva il treno salvezza. No, sul calendario della Juventus c'è da sottolineare l'incidenza dell'Europa League, perché ad esempio Roma-Juventus arriverebbe alla vigilia di un eventuale finale di Europa League per la Juventus, e a quel punto Conte legittimamente potrebbe anche pensare di fare un po' come Mourinho oggi, cioè darla, non dico darla per persa, almeno in apparenza, ma fare molto molto molto turnover, pensare a un eventuale obiettivo di finale, ma è chiaramente ancora tutto in divenire, perché innanzitutto la Juventus deve fare questi punti, sì, con la Sassuolo e l'Atalanta. Francamente la vedo abbastanza agevole. Pensare che perda lo scudetto è fantascienza, però è vero che siamo qui ancora a parlare di un campionato aperto con la prima 90 punti a 4 giornate dalla fine. Matteo D'Ancona, 800 24 00 24. Matteo. Sì, buonasera. Io devo proprio intervenire sulle parole di Garcia. Prego. Io penso che lui è arrivato da poco, ma ha capito subito come funziona il nostro campionato, che è un campionato assolutamente falsato, e ha ragione su quello che ha detto, perché viene in mente proprio un esempio eclatante, ecco, sulle squadre che non si impegnano contro la Juve. Basti pensare alla Roma, le ha vinte tutte, poi è venuta a Torino, ha preso 3-0, e quindi questo è un esempio eclatante. Sì, leggo, no? Dell'ironia, Matteo, o sbaglio? No, assolutamente, penso, le ha vinte tutte, ha vinto sempre, e poi è venuta insomma a Torino, si è visto l'impegno che ha messo, quindi forse c'è del vero in quello che dice. Va bene, grazie Matteo, 800 24 00 24. Manchester City sempre avanti 1-0 contro il Crystal Palace, 0-0 Atletico Madrid a Valencia, perché anche la Liga oggi vive forse il pomeriggio decisivo, perché questa è la trasferta più difficile, a parte quella finale con il Barcellona, per la squadra di Simeone. 800 24 00 24, ci fermiamo. Sappiamo che i social network sono importanti. Tutti convocati. Non avrebbe senso, se io dovessi rispondere ai quesiti di altri sarei un po' presuntuoso. Va bene, grazie. Ricordiamo che Roberto Dardoni, ma lo sapete tutti quelli che ci seguono, è per il Milan forse uno dei calciatori più italiani, più importanti, più pesanti della storia del Milan in assoluto. Grazie Dardoni, che evita di parlare del Milan, se ne è molto parlato nelle ultime 48 ore, anche per le critiche di un'altra grande firma del passato rossonero. Sto parlando di Zvonimir Boban. Venerdì sera Boban, uno dei più duri a criticare Balotelli, e poi insomma vedremo come andrà a finire. Su Twitter gira, la scrive Zazzaroni, di solito molto informato: al Milan stanno pensando di esonerare Seedorf e affrontare il derby con Inzaghi o Tassotti, anche se sarebbe una scelta poco da Milan. Cercheremo di capire. Noi dopo le 18 insieme a Pierluigi Pardo avremo anche Luca Serafini, che conosce benissimo da dentro la realtà del Milan, però insomma la voce che gira, il pensiero di esonerare Seedorf in questa settimana prima del derby e di affrontare il derby con Inzaghi o Tassotti. Federico. Mi ricorda quelle scelte delle annate dell'Inter, dei quattro allenatori, di quando veniva richiamato il buon Luis Suarez o il Giaguaro Castellini. Mi sembra una situazione che però rende l'idea della stagione difficile, dove nessuno è riuscito davvero a capirci qualcosa nel Milan. Io francamente faccio fatica a trovare delle colpe reali in Seedorf, che è arrivato a gennaio, questo sì, fortemente voluto dalla dirigenza, in particolare da Berlusconi, ma con a disposizione un materiale umano che uno non aveva scelto lui, due con pochissimi margini di miglioramento. Io credo sia soprattutto il contesto a fare la differenza. Poi sentiremo Seedorf anche che cosa ha detto venerdì sera. Era abituato a una società diversa, a un Milan diverso da quello di quest'anno. 800 24 00 24. Facciamo il borsino mondiale. Sì. Allora, di Balotelli abbiamo iniziato a parlare, andremo avanti fino alle 19, anzi 800 24 00 24. Voglio sapere se Prandelli lo deve portare o no al mondiale, secondo voi. Oggi ha segnato Toni, secondo me è una doppietta, poi il sito della Lega Calcio in realtà gli assegna soltanto un gol, salirebbe a quota 19. Vi faccio sentire cos'è successo dopo il secondo gol di Toni. Però batte imparabilmente. Ho sentito il strepitoso quest'annata veramente di Toni. Rimarchiamo, un giocatore di 36 anni. Noi vogliamo Toni in nazionale, cantano i tifosi del Verona, e davvero non hanno tutti i torti. No, non hanno tutti i torti, anche se poi Toni ha detto non c'è nessun messaggio da mandare a Prandelli, il CT ha fatto le sue scelte, dobbiamo metterci l'animo in pace. Io non capisco, non perché non vada al mondiale, ci può anche stare, ma perché non poteva stare nei primi 40, Federico. Sono d'accordo, è un vero peccato, perché Toni ha dimostrato, al di là dei gol, ha dimostrato di avere ancora tanta voglia, che la voglia, la passione di mettersi in gioco. Non dimentichiamoci che un anno fa giocava a Dubai, quindi un prepensionamento. Il messaggio che arriva da Toni è quello di un giocatore che, oltre ad averne ancora dal punto di vista dei colpi, ne ha ancora la voglia che magari ad altri manca. Ed è questo, secondo me, l'aspetto più interessante. È stato un po' precipitoso Prandelli, ripeto, non a non portarlo al mondiale, poi si può anche discutere, ma addirittura ad escluderlo. Ha chiamato Gabbiadini, ha chiamato il Sharawi. A proposito del Sharawi, oggi ha giocato con la Primavera, 90 minuti, il Milan ha perso 2-0, il Sharawi si è mangiato un gol solo davanti al portiere, poi Immobile, noi siamo grandi sostenitori della candidatura di Ciro Immobile, oggi un gol, bello tra l'altro, ed è a quota 21 in 31 gare, 8 nelle ultime 6, 13 nel 2014. Ma il capo, c'è chi dice che non va. Il capocannoniere della Serie A non può essere ignorato. Si dice della poca esperienza internazionale, ma nella storia dei mondiali dell'Italia c'è sempre il jolly pescato all'ultimo momento, senza scomodare Schillaci, che è forse il caso più eclatante, ma ci può stare. E per tornare anche brevemente a Toni, io ho un posticino per lui come attaccante di scorta. Visto il Toni, ripeto, di questa stagione, io glielo troverei più magari di un Gilardino, che probabilmente invece ha anche, se vogliamo, una maggiore intesa con Prandelli. È perfetto anche lui per questo ruolo, però chiaramente i numeri di Toni di quest'anno suggeriscono una Ti faccio sentire Ventura, credo stia parlando di Toni. Giocatori, molti giovani, alcuni meno giovani, qui ero estremamente disponibili, che è per creare lo zoccolo duro su cui creare il futuro di questa società e di questa squadra, che ha alle spalle un passato che pesa. Quindi questo era il nostro obiettivo. Poi è chiaro che siamo a 3 domeni dalla fine. Oggi non scommetto sulla permanenza di Immobile l'anno prossimo a Torino. Speriamo resti in Serie A e non vada davvero al Borussia Dortmund. A proposito del borsino mondiale, destro è ancora squalificato, Gilardino lo vediamo stasera, Cerci ha fatto 90 minuti abbastanza bene oggi in Torino Udinese, a me non è dispiaciuto neanche Cassano, anche se il Parma ha perso, però Cassano non segna dal 16 marzo, da quando Prandelli gli ha riaperto le porte c'è stata qualche difficoltà. Ti faccio sentire invece Montella su Pepito Rossi. Da questa settimana lui è guarito, la cosa più importante è quella di trovare la condizione che soltanto gli allenamenti gli possono dare, soltanto le partite gli possono dare, quindi io me lo auguro, ma non sarebbe sicuramente facile. Aveva detto alla vigilia della partita di Bologna, è inconvocabile in questo momento. Ma per la sua storia personale il mondiale lo meriterebbe anche come 24esimo, secondo me. A livello pratico. Sì, però ne vanno 23. Esatto, anche solo come aggregato. Il fatto che comunque Cerci e Cassano rappresentano dei profili unici nel loro genere ed entrambi in grado comunque di poter anche cambiare la partita in corso. E penso che Prandelli possa fare le sue scelte anche pensando a questo aspetto. Raffaele Auriemma, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Te lo aspetti in finale sabato contro il Napoli, Pepito? Ma è la maledizione dei bomber questa finale, si è infortunato anche Higuain, quindi magari... Gioca o no? Perché ieri sera mi sembrava ci fosse ottimismo, oggi ho letto una diagnosi un po' più preoccupante per Higuain. Io temo non ci sarà, e se dovesse esserci saremo nelle stesse condizioni di Rossi e di... Mario Gomez, cioè un calciatore che non è al top della condizione, quindi il Napoli deve fare affidamento anche sul resto della squadra, giacché poiché si dice da più parti che Benitez abbia un gioco tale che permetta a tutti di poter andare in gol, allora ben venga che magari ritroveremo Hamsik per quella finale, perché è sparito da troppo tempo e non credo soltanto per colpa sua, perché noi parliamo sempre di Immobile, di Luca Toni, calciatori che comandano la classifica dei cannonieri, ma ci chiediamo, sono bravi loro o sono bravi quelli che li mettono in campo per fare questi gol? Intanto ti faccio sentire un Benitez di ieri sera, dopo la partita è tornato sulla storia del fatturato, te lo faccio sentire. Se ho una casa di 1 milione e voglio comprare un'altra che costa 2 milioni e 1 milione in tasca, devo vendere la mia per comprare l'altra che sono 2 milioni, 1 milione più 1, 2. Se faccio lo stesso perché voglio comprare un'altra di 4 e ho 2 milioni in tasca, 2 più 2, 4, facile da capire. Quando uno ha più soldi, un fatturato più alto, e compra una casa di 10 e non vende la sua, che è di 3 o di 5, a una da 10 e un'altra da 5. Questo significa fatturato alto per tanti anni. Credo che per qualche compagno che non lo capisce lo spiego adesso. Mi ha fatto impazzire questo parallelo tra i fatturati delle società di calcio e chi compra case. Però Raffaele, io volevo capire con chi ce l'ha Benitez. Allora, è facile dire ce l'ha con Conte per la polemica sul fatturato. Io continuo a sostenere che sia Conte che Benitez in realtà stiano parlando ai propri dirigenti. Ma io non lo so a chi parlano. Io so che loro hanno il diritto e il dovere di mettere in campo al meglio le formazioni che guidano. Il Napoli non mi sembra una squadra scarsa, sinceramente, e così come lo stesso Rafa Benitez ha sostenuto più volte, si aspettava qualcosa in più. Figuriamoci noi, se lui se lo aspettava, noi lo avremmo preteso, perché il Napoli ha speso quest'anno 103 milioni di euro, credo che sia la squadra che abbia speso di più in campionato. Negli ultimi tre anni soltanto la Juve ha cacciato qualche soldino più degli altri. Il Napoli aveva il dovere di fare qualcosa di meglio, non dico vincere lo scudetto, ci mancherebbe, perché con quel passo non riesce a star dietro nessuno, però sì, ma stare un po' più vicino alla Juventus e probabilmente alla Roma, secondo posto. Ma evitare questa roulette dei preliminari di Champions, perché è un rischio enorme. Ma ti aspetti che Hamsik venga ceduto? Attenzione, intanto è in vantaggio l'Atletico Madrid, Raul Garcia in vantaggio l'Atletico Madrid a Valencia, 42esimo del primo tempo, scene di delirio dei tifosi dell'Atletico Madrid. Raffaele, ma tu ti aspetti che quest'estate parta o no Hamsik? Perché secondo me è molto ruota, cioè si capirà molto delle volontà anche di De Laurentiis. Come sarebbe presa una cessione di Hamsik? Il discorso che ho sentito dall'agenzia immobiliare Don Raffè mi fa capire che Hamsik è una di quelle case che bisogna vendere per comprarne un'altra, e non mi pare che sia una grande mossa, perché Hamsik credo che sia un patrimonio del calcio mondiale. Uno come lui si tiene, si compra, ma non si vende assolutamente. Però è chiaro, se deve essere utilizzato così poco, tanto male, sarà lui stesso a chiedere di andare via, così come ha detto lo stesso De Laurentiis. Io non lo cedo, però se dovesse chiedermi di andare via, puntini sospensivi. Sì, che poi la stessa cosa detta due anni fa con Lavezzi, un anno fa con Cavani. Alla fine queste cose sappiamo come vanno a finire. Federico? Sì, ciao Raffaele, io volevo, volevo chiederti un parere su Insigne. Io all'inizio della stagione ero tra quelli che pronosticava per Insigne un possibile inserimento nella lista dei 23 per il Mondiale. Mi pare invece che la sua stagione, dopo un avvio promettente, sia andata in netto calando. Quali sono state secondo te le ragioni? Secondo te, a mio parere, ha inciso molto probabilmente l'esplosione di Mertens, che lo ha chiuso in maniera determinante. Ecco, che possibilità ci sono per Insigne, posto che magari un gol decisivo, ad esempio in finale di Coppa Italia, cambierebbe di un bel po' il giudizio. La storia della sua stagione e forse anche la sua carriera. La storia futura anche nel Napoli. Esatto. Prego Raffaele. Ma sono successe tante cose, innanzitutto l'esplosione di Immobile, poi c'è Destro che è tornato fuori a tutto spiano. Insigne, quando è iniziata la stagione, giocava in un modo, faceva l'attaccante. Ora ne gioca in un altro, fa l'esterno che ripiega, tant'è vero che dalle statistiche del campionato di Serie A risulta essere l'attaccante che ha recuperato più palloni, quindi è cresciuto in questo senso, è diventato più calciatore, ma non è più l'attaccante di prima, e quindi mi sembra logico che Prandelli guardi ad altri. Raffaele, un flash, ti faccio sentire De Laurentiis su il ritorno di Lavezzi. Stanno del Foggia, Presidente. È fattibile, Presidente? Presidente, è fattibile? Ma è diventato una vecchierella, ragazzi. Posso darle un bacio, Presidente? No, la mela, la mela. Ma le minestre riscaldate. Giusto. Ma chi è? Ma tu, una moglie che è andata con altro, la rivedi? No, no. Giorgio De Luca se la riprenderebbe, la moglie Lavezzi che è andato con un altro. Tu, Raffaele? Lavezzi non tornerà mai più a Napoli, ma non perché lui non voglia, perché sono convinto che De Laurentiis non lo gradisca più, anche perché a parte il calciatore non lo stima neanche come persona, per tante considerazioni che ha fatto anche pubblicamente, non è che sto qui a dirlo, quindi, ma non ha tutti i torti De Laurentiis, anche perché credo che Lavezzi oggi non sarà più il calciatore di un paio di anni fa, di tre anni fa, cambiato, probabilmente fisicamente non è più lo stesso di prima, in più c'è il particolare non da poco che oggi guadagna 6 milioni di euro. Sì, cosa che lo rende praticamente inavvicinabile per la Serie A, non solo per il Napoli. Grazie a Raffaele Auriemma, ciao Raffaele. Ciao, grazie a te, buona serata. Tutti convocati. Finito il primo tempo a Valencia, Atletico Madrid in vantaggio 1-0, in questo momento Atletico 88, Real Madrid 82, Barcellona che gioca questa sera a Villarreal 81. 8-0-0-24, Leonardo Davasto. Leonardo, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Io voglio intervenire dicendo che secondo me ci sono tante punte in Italia che possono andare ai mondiali, ma l'unico centravanti purtroppo è Balotelli. E quindi ce lo dobbiamo tenere. Perché Toni non è un centravanti, destro non è un centravanti. Sì, ma per me il centravanti, tenendo l'Elicona e Van Basten. Io sono juventino dai piedi alla testa, però l'unico centravanti attualmente in Italia è Balotelli. Sì, a me sembra che lui stesso ieri venerdì sera abbia spiegato in qualche modo che in realtà ama anche giocare in maniera diversa, Federico. Sì, non anche, proprio da prima punta, sì. Non proprio da centravanti. Anche se Marocchi poi lo ha rimproverato dicendogli di farlo fino a un certo punto, insomma. Sì, ma ha detto la verità Marocchi. Balotelli si muove poco in campo. Non so se lo sceglie lui o glielo dice Seedorf, però questo è un problema. Ed è un limite. È un limite anche perché la qualità del Balotelli, il Balotelli esplosivo che abbiamo visto, che ricordiamo dell'Inter, il Balotelli anche del Manchester City, anche lì determinante, era un Balotelli che spaziava in tutte le zone dell'attacco e aveva dell'imprevedibilità dei suoi movimenti e delle sue conclusioni, il suo punto di forza. E il Balotelli di quest'anno è un Balotelli davvero neutralizzato, e quel che fa più pensare è che ci sia comunque anche una componente, non dico autolesionista, ma che comunque una componente personale in questa sua involuzione. Si sembra in rottura prolungata con l'ambiente, non solo nel Milan in generale, anche col tweet mondo, che ha mandato venerdì notte, il Balotelli divido di... l'Italia, ma solo all'estero sono compatti, che non è nemmeno vero, perché anche all'estero comunque Balotelli si è lasciato dietro parecchie polemiche. Sì, l'impressione di io da un certo punto di vista la archivierei abbastanza rapidamente l'uscita di venerdì sera, perché si è avuto l'impressione di un Balotelli estremamente alterato, probabilmente anche proprio dalla transagonistica. La risposta quando dice io non sono un fuoriclasse, sono un giocatore normale, è chiaramente quella di una persona che in quel momento si sente un po' in lotta col mondo. Però ecco, torniamo al discorso di base, la scarsa serenità di un attaccante di quella portata, di quel potenziale a un mese e mezzo dal mondiale è una preoccupazione della quale non si può non tenere conto. Sì, anche perché il mondiale sarà certamente una manifestazione, un mese di grande pressione. Roberto da Roma, Roberto. Buon pomeriggio. Prego. Chiamo da Roma e sono un tifoso della Roma, però per onestà intellettuale devo dire che purtroppo la Juventus merita a torto collo lo scudetto, se non altro perché ha vinto l'incontro diretto e perché ha giocato anche delle coppe, una coppa, per quanto meno prestigiosa, ma sempre logora nel corso dell'anno, e quindi questi due fattori fanno sì che la Juve purtroppo, dico purtroppo perché sono tifoso della Roma, quindi non posso sì, dire... Sì, stia meritando questo scudetto, ma del resto secondo me lo dicono i numeri, ecco. È difficile dire che uno scudetto possibile, probabile della Juventus arrivati a questo punto sia uno scudetto non meritato. A me non è piaciuto, ripeto, l'ultimo Garcia, quello di questa polemica. Poi è altrettanto evidente che la stagione della Roma è stata, non lo so, straordinaria, non ci sono aggettivi. Beh, anche perché quando è una Roma che rischia teoricamente di chiudere il campionato a 94 punti, che solitamente è una quota alla quale non vinci, stravinci il campionato, 3 punti sotto al record dell'Inter, del post Calciopoli. Mi ricordo un po' la stagione, in realtà non c'ero ancora, ma il 76-77, Juve 51, Torino 50, e la sfortuna di fare l'annata della vita nella stagione in cui c'è qualcuno che è comunque ancora più bravo di te. L'aspetto secondo me sul quale tocca riflettere è un altro, cioè che la Roma ieri ha battuto il Milan in quel modo, con quella facilità, un Milan che arrivava da 5 vittorie consecutive. Probabilmente la superiorità della Juventus e della Roma è difficile da percepire È difficile da capire quando inizia la superiorità disarmante di Juventus e Roma e quando invece si tratti di un campionato per molta parte oggettivamente modesto. Sì, abbiamo sentito anche la delusione di Napoli e del Napoli, al di là del terzo posto che può essere un buon risultato. Napoli che è uscito da questo campionato praticamente dopo il girone d'andata, non si è più visto, ha buttato via più di 20 punti in partite contro squadre medio-piccole, squadre che dovevano in qualche modo essere un serbatoio di punti. Noi però andiamo in Inghilterra. Innesca Wheeler, attenzione, Torres in campo aperto, è partito Torres in campo aperto, il Nino ad Anfield con la maglia di un altro colore, quella blu, per servire William che entra in porta con il pallone, è 2-0 per il Chelsea, entra in campo José Mourinho. Paolo Ciaravano, buon pomeriggio, ciao Paolo. Buon pomeriggio a tutti. Che abbiamo sentito nel racconto degli ultimi palpitanti secondi di Liverpool-Chelsea, sono qui con Federico Casotti, noi li abbiamo ribattezzati il 5 maggio del Liverpool, un vero e proprio dramma sportivo, usiamo la parola dramma, diciamo, trattandola con tutta l'attenzione del caso, però oggi il Liverpool, secondo me, ha perso la Premier. Non la vincerà Mourinho, la vincerà il Manchester City, probabilmente, di sicuro, insomma, oggi il Liverpool è caduto sul traguardo. Sì, è tutto vero, l'unica differenza rispetto al 5 maggio è che, come dire, il 5 maggio era un qualcosa di irreparabile per i protagonisti di quell'incrocio comunque straordinario. Tutto sommato il Liverpool paradossalmente ha ancora la possibilità di farcela, perché è al momento in testa alla classifica e perché comunque ci sono ancora due partite. Questo campionato, questa Premier League ci ha insegnato però che davvero tutto è possibile, perché ci sono una serie di situazioni che sembravano difficili da prevedere all'inizio della stagione che invece si sono verificate. In pochi pensavano il Liverpool così avanti fino a questo punto del campionato, in pochi forse alla vigilia pensavano un Chelsea vincente ad Anfield. Mai dire mai mi sembra assolutamente un motto che possa andare bene, sì, per questa assolutamente per questa obbligatorio premia. Anche se in questo momento Manchester City 2-0 contro il Crystal Palace, raddoppio di Yaya Touré. Ha vinto credo anche dal punto di vista psicologico Mourinho oggi, per tre giorni ha parlato di nemici della Football Association, del rispetto per il Chelsea, oggi ha messo mezza squadra di riserve. A me è piaciuto, poi ho letto tanti commenti in rete che hanno parlato del catenaccio e del culo di Mourinho, però secondo me non si può ridurre tutto a quello. No, ma assolutamente, oggi si fronteggiavano due modi diversi di cercare di vincere le partite, quello di Rodgers e quello di Mourinho. Uno si è detto allievo dell'altro, ma poi insomma per come si è sviluppata la carriera e il modo di giocare, sono due allenatori estremamente distanti. Rodgers, uno che ha studiato molto il calcio spagnolo, ha studiato il tiki-taka di Guardiola e del compianto Tito Villanova, ma l'ha poi fatto suo in modo assolutamente innovativo. Mourinho gioca tutto un altro tipo di calcio, secondo me hanno legittimità, hanno diritto di cittadinanza entrambi questi modi di giocare a calcio per provare a vincere le partite. Una cosa si può dire, il Chelsea non è una squadra che sa imporre il suo gioco, in questa stagione ce lo ha dimostrato, ma è anche vero che è una squadra che non fallisce mai. Mourinho è un allenatore che non fallisce mai gli scontri diretti, quattro partite contro le altre due dirette candidate, dirette pretendenti, e quattro vittorie in casa e fuori. Sì, questo è proprio il giardino di casa di Mourinho. Abbiamo purtroppo 30 secondi, poi ci dobbiamo fermare per il GR. Una puntura, Paolo, sulla vicenda di Gerrard, vicenda umana secondo me oggi più che tecnica. Assolutamente, assolutamente. Sembrava una sceneggiatura scritta da qualcuno sicuramente che non tifasse per il Liverpool, ma che amava evidentemente finali thrilling per un campionato, per una partita, che sbagliasse proprio Gerrard da quel pallone con un solo uomo nella metà campo del Liverpool, Dembaba pronto ad andare in porta. È evidentemente scritto da una regia occulta e che sta rendendo questa Premier League un romanzo davvero avvincente. Sì, ha detto Gerrard che darebbe la vita per vincere la Premier, questa Premier con il Liverpool. Un suo errore potrebbe aver condannato il Liverpool ad arrivare secondo. Grazie Paolo Ciaravano, collega di Fox Sport. Ciao Paolo. Un saluto a voi. Ciao. Noi restiamo qui anche con Federico Casotti. Dopo il GR arriva Pierluigi Pardo. Ci fermiamo. Ragazzi, sto arrivando, fra poco. 800240024. Continuiamo. Tutti convocati weekend, fra poco. Tutti convocati. carissimo Federico Casotti. Diego Costa ha appena sbagliato un gol che sarà copertina se l'Atletico Madrid non dovesse vincere questa Liga, solo davanti al portiere del Valencia, metà campo, è arrivato lì, ha cercato di fargli il tunnel, invece palla respinta, ma l'Atletico Madrid conduce per 1-0. È finito il primo tempo del Manchester City, che vince 2-0 fuori casa contro il Crystal Palace. Seguiamola questa domenica di calcio internazionale dopo il suicidio sportivo del Liverpool in casa contro il Chelsea. Certo che se questo gol dovesse contare qualcosa. Sì, perché poi lungi da me sminuire le qualità di Diego Costa, quest'anno ne ha fatti tanti, ne ha anche sbagliati di eclatanti tra campionato e Champions League. Chiaramente è una giornata veramente da bivio, anche perché in Spagna c'è anche l'onda emotiva di Villanova. Questa sera il Barcellona vorrà senz'altro dedicare una grande prestazione al suo ex allenatore. Mi pare comunque che bene o male tutte e tre ancora sotto traccia. L'Atletico Madrid ha il vantaggio dei punti, ma oggettivamente è un filino più debole delle altre due. Mi pare però un po' indebito d'ossigeno, però oggi sta vincendo una partita importante. Lo scoglio fondamentale. Comunque andremo in Spagna dal nostro Filippo Maria Ricci. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Benissimo Pier, pomeriggio ricco, non solo calcio internazionale, abbiamo qui il preziosissimo Federico Casotti. Ciao Pier. Ciao. E poi ci hanno servito sul piatto queste due polemiche di giornata. Ti faccio sentire Conte. Sono rimasto sorpreso, ecco, dalle dichiarazioni di Garcia, perché le ho trovate molto provinciali sotto tutti i punti di vista, e andando un po' indietro, se sommate agli aiutini, le posso catalogare, ecco, nelle chiacchiere da bar, così come avevo catalogato gli aiutini, no? Pier, da che parte ti metti tra Conte e Garcia? Non mi metto nessuna schierati parte, perché schierati. No, ma non è questione di schierati. Noi siamo schierati per Conte. Ma no, cioè, da che punto di vista? Secondo me è chiaro che la Juve ha più punti della Roma, e quindi per campionato. Io ho parlato tante volte durante la stagione, non mi è sembrato un campionato falsato. Sinceramente rimane il peccato per la Roma, che probabilmente non vincerà il campionato facendo una quantità di punti che le consentirebbe, per esempio, in Inghilterra di essere in testa alla classifica e quasi di festeggiare già nella prossima giornata. Quindi questo, secondo me, può essere un po' un motivo di frustrazione. Poi è anche vero che qualsiasi frase, diciamo, che te la ributta di là, no? Col rovescio bimane a due mani, come i tennisti, quelli muscolari, non è che si fa pregare due volte. Però secondo me è anche comprensibile che gli dia fastidio sentirsi dire nelle ultime settimane la Juventus ha giocato contro nessuno, contro squadre arrivate morbide, che hanno rinunciato, che si sono scansate, per dirla alla romana. Secondo me Conte ha ragione. Ho trovato questa polemica un po' sterile da parte di Garcia, che per il resto, oltre a essere un allenatore che ha fatto una stagione straordinaria, è certamente un valore aggiunto per il nostro campionato. La polemica in realtà non è questa, è che a Roma dicono che nei momenti di pressione della Roma non ci sono stati aiuti a favore, nel momento eventuale di pressione della Juve ci sono stati gli aiutini. Questo è il punto di vista, questo è il nodo fondamentale, così come viene percepito, secondo me, riassumendo in soldoni, no, dall'ambiente romano. Che ti devo dire, secondo me ci sono stati sicuramente gli episodi, ci sono stati anche gli episodi in alcune partite che hanno riguardato la Roma. È una polemica veramente nella quale è difficile entrare, anche perché dovresti rivedere il file di 35 giornate di campionato. Ripeto, io non ho la sensazione di un campionato falsato, non ho la sensazione di un campionato con un disegno, assolutamente no. Credo che la Juve, probabilmente sì, con qualche situazione arbitrale diversa, magari adesso poteva non esserci 8 punti, poteva essercene qualcuno in meno. Credo che la Juve complessivamente sia un filo più forte, un filo più completa della Roma, parlando di due grandissime squadre. E credo che mai la Roma, credo sia arrivata al 14° secondo posto della storia, mai come in questa circostanza, questo secondo posto in relazione al punto di partenza della Roma, da dove veniva, secondo me deve essere vissuto con felicità e quasi come uno scudetto. Sì, anche secondo me, magari evitando di infilarsi in queste polemiche, ma proprio perché è straordinario, proprio perché è straordinario questo secondo posto. Di innervosire l'avversario, insomma, voglio dire. Sì, segno che ci crede ancora Garcia. Ma questo posso dirti, questa è una medaglia per Garcia, perché voglio dire, in tanti avremmo pensato, io pure pensavo, insomma, che la Roma avrebbe mollato quasi a un certo punto per non rosicare di più, non so, come nel senso di di non stare per lì staccare a fare... la spina, e invece no, esatto. Siamo ancora qui. Invece l'altra polemica, l'Italia che si è svegliata questa mattina con la domanda Balotelli o no al mondiale e la sottodomanda, cioè Balotelli è o no un top player, in realtà aveva risposto già venerdì nel suo sfogo a Sky lo stesso Balotelli. Tu pensi veramente che tu sia un fuoriclasse? E come io l'hai dimostrato? Io penso di essere un giocatore normalissimo. Non ho mai detto di essere un fuoriclasse. Siete voi che parlate di questo. Devo essere un fuoriclasse, ci vorrà tempo e basta. Siete voi che parlate sempre di fuoriclasse, non fuoriclasse. Vi aspettate sempre 5 gol da Mario. Noi speriamo che Maturana. Si possa giocare anche male, bene, non c'entra niente. Pierre, è o no un top player? Ma no, nel senso che se per top player si intende un giocatore capace di prendere per mano una squadra nei momenti difficili. Questo è stato, guarda, il vero paradosso di Balotelli di quest'anno è questo: lui fa il record di gol nella sua carriera, anche se c'è da dire che 14 gol non è che sia un numero folle, per cui questo ci fa anche un po' riflettere sul fatto che è un giocatore con grandi colpi ma che non aveva mai avuto grande continuità dal punto di vista realizzativo, visto che il suo record precedente era 13 gol. Il paradosso è questo: fa il record in una stagione nella quale, insomma, dai, non c'è da mille punti di vista, nel senso che sicuramente fa delle grandi giocate, 14 gol non li fai per caso, però a differenza per esempio dei 6 mesi dell'anno scorso, nei quali comunque ha fatto 12 gol, era stato decisivo, si era caricato la squadra sulle spalle, esatto, questo non è accaduto, sei sul rigore, non è accaduto quest'anno, aveva caricato la squadra sulle spalle, quest'anno è mancato chiaramente per colpe non soltanto sue, per esempio approfondire questo benedetto tema tattico di capire se mai una volta nella vita potranno giocare insieme lui e Pazzini, se potrà giocare assieme alla prima punta, questo secondo me è un bel tema e probabilmente Balotelli su questa ragione, però insomma dal punto di vista poi della personalità, degli attributi, del dire qua c'hai un giocatore fatto, finito, col quale le cose cambiano perché c'è lui, ecco, questo sì, è stata una stagione da questo punto di vista negativa. Tra l'altro, Federico, ho letto una statistica: 26 gol in un anno e mezzo di Milan, 24 contro le piccole, solo 2 contro le grandi. Anche questo è un dato che deve far riflettere. C'è la sostituzione di Villa a Valencia, acclamato dai suoi ex tifosi del Valencia, ovviamente adesso la maglia dell'Atletico Madrid, insomma. Bellissimo momento. Sì, bel momento. Oggi ne abbiamo vissuti tanti, Federico. Sì, c'è da dire che con la Juventus per un motivo o per l'altro, ad esempio, non ha mai giocato, quindi incide anche quello, incidono anche le assenze in questa statistica. Ma sì, però io sono andato a riprendermi le pagelle di tutta la stagione. Sì, sì. Allora, le partite da 4 e mezzo per Gazzetta, Corriere dello Sport, Tutto Sport, partite con Parma, Lazio, Fiorentina, Napoli, la Roma, cioè le partite con le grandi, vai a cercare le partite da 7, sono le partite con il Cagliari, con Livorno, con il Chievo, forse quella con la Fiorentina, non è solo questione di gol. No, no, è questione di maturità, ma mi ha colpito quando ha detto mi serve tempo, ci vuole tempo, ma Benedetto ragazzo, hai già avuto un vantaggio rispetto ai tuoi coetanei perché a 17 anni era già praticamente un giocatore fatto e finito, e a 23, tra i 23 e 24 anni, anche per l'anagrafe del calcio, finiscono le nazionali giovanili, perché ancora a 23 tempo, anni Pierre, sei fuori dalla nazionale under 21 anche proprio a tutti gli effetti, a 24 anni devi essere un giocatore adulto sotto tutti gli aspetti, e mi pare invece che Balotelli abbia perso un po' di tempo sotto ancora tempo aspetto. No Pierre, flash che poi andiamo in traffico. No, ma il tempo uno come lui ce l'avrà sempre, nel senso che poi alla fine quando tu hai un grande talento il tempo ce l'hai sempre, perché puoi rapidamente cambiare il corso, no? Magari domenica prossima Milan-Inter si decide se gli interisti sono autorizzati a fare gli scongiuri, magari si decide con una perla di Balotelli, può succedere, non lo escluderei, è successo mille volte, lui ha sempre il battito d'ali, il colpo di talento che può cambiare la storia. Il problema è la continuità, io mi ricordo lo dicevo all'inizio della stagione, il punto non è capire se Balotelli farà 10-15 grandi giocate in stagione, il punto è capire se, soprattutto con una squadra di club, Balotelli è un giocatore sul quale puoi costruire, puoi investire e dire il nostro top player è lui e di contorno gli creo 4-5 buoni giocatori. Questo quest'anno è completamente mancato. Sì, a leggere il Corriere dello Sport, Fulvio Fedele, questa mattina il Milan ha deciso che in estate Balotelli è uno dei giocatori che andrà via, perché su Balotelli non si può costruire. 800 24 00 24, traffico. Tutti convocati. 800 24 0024. Sì, Pier aveva già deciso probabilmente da qualche settimana il Milan. Io non so se sia vero, abbiamo fatto sentire prima il telefonino di Mino Raiola, che oggi è assolutamente staccato. Evidentemente, al di là che probabilmente era in Francia a seguire il Paris Saint-Germain che non ha vinto il titolo, c'è anche la volontà, come sta facendo da un paio di settimane a questa parte, di non esporsi sul futuro di Balotelli. Sì, io penso che poi c'è un discorso molto così terra terra, egoistico. Raiola possa anche ricavare dei vantaggi, nel senso che sappiamo bene che soprattutto alcuni procuratori bravissimi, per carità, dal punto di vista del loro lavoro bravissimi, riescono soprattutto con i trasferimenti a incassare cifre molto, molto importanti. Da questo punto di vista Balotelli è la manna, nel senso che ha già avuto mille variazioni di rotta nella sua carriera. No, io credo che veramente siamo di fronte a un giocatore che deve un po' ritrovare se stesso. E lo ripeto, al di là del fatto che sono sicuro che farà altre magie da qui fino alla fine, e tra l'altro sia ben chiaro, io glielo auguro con tutto il cuore, perché veramente è un giocatore. Lui l'altro giorno a un certo punto ha scherzato, era arrabbiato sulla parola patrimonio, no? Però è così, insomma, è un talento italiano, è comunque un ragazzo che non mi ha fatto niente, no? Che non mi permetto di giudicare. E quindi è chiaro che si fa il tifo per lui, almeno io faccio il tifo per lui. Ma io faccio il tifo anche per Immobile, vero, per Destro, che sono altrettanto talenti, infatti, che stanno emergendo. Allora, se apriamo quel discorso lì, apriamolo tranquillamente. Cioè, quello che oggi è stato visto e scritto su tutti i giornali, e che pare che Prandelli stia cominciando a considerare, secondo me è assolutamente legittimo. Sì, perché... cioè, considerare un piano B a Balotelli, questo è... ci sta, sarebbe folle se Prandelli oggi non avesse in testa un piano B, perché Balotelli, lo sappiamo bene, può essere tutto e il contrario di tutto. Perché, coinvolgo anche Federico, se noi abbiamo fatto questa apertura di credito perché Balotelli pensavamo fosse un top player, se lui per primo dice di non esserlo, a quel punto però io lo metto in competizione con gli altri. C'è gente che quest'anno ha dimostrato di meritare molto di più quella maglia della nazionale. Sì, è un aspetto anche di voglia. All'inizio della trasmissione si parlava della voglia di rimettersi in gioco che ha dimostrato quest'anno Luca Toni, anche se... poi Luca Toni ha dalla sua qualche perplessità legata all'età, legata alla condizione. Non dimentichiamoci del fattore climatico, che nel Brasile inciderà molto e che potrebbe avere anche un suo peso nella scelta dei giocatori da parte di Prandelli, nella scelta di alcuni giocatori soprattutto. L'impressione però è che per l'attacco dell'Italia ci sia davvero un puzzle ancora difficile da comporre, con tante incognite, chi a livello tattico, chi a livello di tenuta comportamentale. In generale, diciamo che per accantonare Balotelli all'interno dei 23, perché io comunque a Balotelli non rinuncerei mai, si pensa comunque ad Antonio Cassano, il discorso è comunque legato a due giocatori imprevedibili nel senso più positivo del termine, ma comunque imprevedibili. Posso dire una cosa? Guardate, sì. Io adesso Cassano si può anche non portare al mondiale, è una scelta tecnica, però l'imprevedibilità di Cassano, adesso scusate, è un'imprevedibilità tecnica, nel senso che, come tutti i giocatori di fantasia, è un giocatore che non ha un rendimento sempre eccellente, ma insomma anche gli altri, cioè anche Destro ha vissuto delle domeniche in cui sembrava un brocco, ed stiamo parlando di un grande attaccante. Cioè, io credo che sia un po' un luogo comune, credo sia un po' pigro sinceramente fare questo paragone tra Balotelli e Cassano, perché sono stati sicuramente due giocatori, Cassano sicuramente e Balotelli rischia, che hanno sperperato pezzi di talento, e da questo punto di vista non ci sono dubbi che Cassano l'abbia buttato via, però insomma le caratteristiche umane, le caratteristiche comportamentali di questi due giocatori sono completamente diverse. Negli ultimi 10 anni Cassano ha fatto delle cose fuori dal campo nelle quali ha litigato, ha discusso, eccetera eccetera. Nessuno mette in discussione questo, ma dal punto di vista della professionalità, dell'impegno in campo, insomma, tolta la parte di Roma e di Madrid, cioè da Madrid in poi, dalla Samp in poi, quindi parliamo degli ultimi... Sì, c'è stato certamente un miglioramento. Ha litigato con Garrone, sappiamo benissimo che è stato un episodio bruttissimo, del quale poi tra l'altro si è anche pentito, si sono anche chiariti, fortunatamente c'è stata questa cosa, questo chiarimento che è avvenuto prima della tragica scomparsa dell'ex presidente della Sampdoria. Ma voglio dire, stiamo parlando di una cosa extra calcio, di una cosa che secondo me rientra nel litigio sicuramente non bello, perché non bisogna mai litigare. Sì, però in campo ha trovato poi una sua maturazione, no, Cassano. Volevo... prego Federico. No, volevo solo precisare che la mia perplessità su Cassano è dovuta al fatto che Prandelli di fatto non l'ha mai provato nell'ultimo periodo. Che però lui l'aveva detto poco anche dopo l'europeo. Ecco, quindi... c'è chi già conosco e chi voglio, chi invece voglio conoscere. Intanto saluto Luca Serafini, collega di Sport Mediaset. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Per capire cosa succede al Milan, ti riporto quanto ha scritto Ivan Zazzaroni su Twitter questo pomeriggio. Il Milan pensa di esonerare Seedorf prima del derby e di affrontare la partita con l'Inter con in panchina Inzaghi o Tassotti. In un momento in cui la società non ha nessuna posizione nei confronti di Seedorf e in due anni di silenzio assoluto di Berlusconi, tutti ormai sono liberi di scrivere tutto il contrario di tutto, perché non essendoci smentite, non essendoci conferme, non essendoci strategie di linee guida, chiunque può twittare quello che crede. Sì, ma è un'opzione credibile o no? Ah sì, beh, è credibile, perché ormai non deve più stupire nulla. Cioè, anche il fatto che una società che ha esonerato di fatto tre allenatori in 27 anni poi ne esoneri uno in due mesi dopo che ha fatto 16 punti in 6 partite. Quindi ci sta tutto. Pier, tu ci credi? Questo secondo me Seedorf l'altro giorno in quello sfogo lì, non c'è più il Milan di una volta, ha ragione. Poi io non so, cioè si può discutere Seedorf sicuramente, io non capisco per esempio perché non provi mai le due punte. L'altro giorno la situazione dei trequartisti mi sembrava disperata proprio, l'unico che aveva un po' di energia era Taraf, ma insomma complessivamente perché non provare una soluzione con Balotelli e Pazzini? Su questo posso essere d'accordo, però poi che Seedorf in questo momento si senta clamorosamente improvvisamente scaricato da una società che quattro mesi fa l'ha acclamato come l'uomo della, no, tre mesi fa l'ha acclamato come l'uomo della provvidenza, questo mi sembra abbastanza. Allora vi faccio sentire l'intervista che sta iniziando adesso, Sky Sport, Seedorf in esclusiva. Ve lo faccio sentire. Anche con il signor Galliani, che va un po', cioè, 10 anni assieme, siamo visti tante volte in Brasile anche con le famiglie. Non credo che lui possa avere assolutamente il pensiero, anzi io non lo voglio il suo posto, non voglio essere il presidente, non voglio essere il direttore generale, non voglio essere amministratore delegato, io voglio fare l'allenatore del Milan, è quello che è stato chiesto a me e quello che sto facendo, e quindi tutte queste voci che non lo so, non è sicuramente il mio pensiero, quindi ho grandissimo rispetto per il signor Galliani, credo che lui mi ha dato tantissima fiducia, perché nonostante che l'avevo chiesto di venire più vicino alla squadra, eccetera, lui qualche volta è riuscito a venire, probabilmente ha tante cose da fare, non è riuscito a venire così spesso come voleva, ma la vicinanza della società è una cosa fondamentale. Quindi l'introduzione della figura del tutor non ti aveva, come dire, disorientato, destabilizzato, non ti aveva infastidito? No, ma il tutor l'hanno inventato loro, io non ho bisogno di un tutor, perché comunque il tutor, diciamo, il figura del tutor l'ho avuto durante tutta la mia carriera con dei migliori allenatori diciamo, che il calcio ha vissuto negli ultimi 25 anni, però i consigli del signor Galliani sono sempre benvenuti con la sua esperienza, questa è una cosa che anzi ho chiesto sin dall'inizio, la sua vicinanza è importantissimo, come lui è stato vicino a tutti gli allenatori che sono stati qui al Milan. Vabbè, no, vi domandavo se consideri un fallimento la tua missione oppure se ritieni di averlo addirittura migliorato nei comportamenti. Vabbè, fate voi un po', parliamo di numeri. No, parlo di comportamenti, aspetta. Comportamenti, poi andiamo sulla questione durante le gare, comportamento durante le gare. Io convivo con lui. Parlo nell'insieme, insomma, nella crescita, anche nella maturità del ragazzo. Ma io credo che la crescita sia visto chiaramente, solo chi non vuol vedere non vede, cioè, è semplice. Anche come lui è uscito l'ultima partita, composto, mi ha detto due parole che mi ha detto anche Honda contro Lazio, uguale, identico, lui si è comportato uguale a Honda e non è venuto fuori tutto questo discorso. Mi ha chiesto perché, come quasi tanti giocatori fanno quando escono dal campo, perché è normale, poi ci siamo chiariti dentro il perché e fine, non devo compartire con tutti le nostre conversazioni, perché noi abbiamo un ottimo rapporto da adulto a adulto e lui sta crescendo, poi non ha fatto le sue migliori partite, ma tanti giocatori non riescono sempre a esprimersi al meglio, ma perché e Balotelli deve sempre venire fuori, è tutto una cosa. Quante volte abbiamo visto composti i comportamenti di Balotelli è un po' avventuroso, sì. Cioè, questo, no, definirli composti, no. No, il suo comportamento quando usciti dal campo non mi è sembrata scomposta, scusa. Sì, allora, questo è Seedorf su Balotelli, la seconda parte l'abbiamo sentita insieme perché Sky l'aveva annunciata ed è arrivata in questo momento l'intervista. Mi interessa soprattutto la prima, Luca Serafini, quella: non voglio il posto di Gagliani, non mi serve un tutor, però mi servirebbe la società vicina. Che effetto ti ha fatto? L'effetto di una situazione ben nota, cioè è stato scelto, fra l'altro designato da 15 mesi prima di essere poi assunto, perché per la prima volta Seedorf andò ad Arcole nell'ottobre del 2012, poi ci ritornò ancora e poi finalmente 3 mesi fa appunto è diventato allenatore. Da allora probabilmente lui stesso non si aspettava che Berlusconi fosse completamente assente, non conoscendo più la situazione degli ultimi tempi, e Berlusconi è assente, quindi lascia campo alle faide tra Barbara e Gagliani, lascia spazio a tutto quello che sta succedendo in questo momento al Milan, dove ci sono voci incontrollate, dove una volta questo era il regno della comunicazione, il regno di coloro che riuscivano a tenere in casa i propri segreti. Oggi addirittura quegli stessi personaggi fanno di tutto per rendere le cose pubbliche, per screditare questo piuttosto che l'altro. Mi raccontava un ex giocatore che in una visita sua alla sede del Portello un mesetto e mezzo fa, cioè io prima di arrivare alla persona con la quale dovevo parlare sono stato fermato da 10 persone che conosco e c'era chiunque parlava male di qualcun altro. Questa è la situazione. Sì, questo è un po' lo spaccato della situazione attuale del Milan. Luca, ti chiedo se puoi pazientare ancora un minuto, perché mi interessa approfondire con te, con Pierluigi e anche con Federico ancora qualcosa che abbiamo sentito e magari continuiamo a sentire di Seedorf. Ci fermiamo. Non so se avete visto meno di 1000 tweet, non scrivo niente particolare. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Convocati. E dunque avete sentito Seedorf, ha un rapporto decennale con Gagliani, non voglio il suo posto, le voci che girano non rappresentano il mio pensiero, non ho bisogno di tutor, anche se i consigli di Gagliani sono preziosi per me. E poi su Balotelli si è comportato uguale a tutti gli altri. Per chiudere, Luca Serafini, collega di Sport Mediaset, oggi Corriere dello Sport parla del mercato estivo, Balotelli via anche il Sharawi e De Sciglio. Hai la sensazione che sarà un'estate di lacrime e sangue, con o senza Europa, credo a prescindere dal risultato del campo? Le ultime due campagne, mercato è una parola grossa, ma insomma le ultime due campagne estive scusatemi, sono state piuttosto tristi già, e peggio di quelle mi sembra difficile, perché se ne sono andati in rapida successione tutti i totem di una volta e quelli recenti come Thiago Silva, Ibrahimovic, Pirlo, e sono arrivati al loro posto a Mexes, Zapata, Montari, Nocerini, quindi mi sembra onestamente che sia difficile fare peggio. Sì, non ho fiducia sul fatto che venduti anche bene i giocatori importanti come Sciglio, Sharawi e Balotelli, poi i soldi vengono reinvestiti. Negli ultimi 2 o 3 anni non è stato mai così. Sì, c'è sempre da capire, che poi è la domanda che sta soprattutto, qual è la volontà in questo momento della proprietà, quindi di Fininvest, certo, quindi di Silvio Berlusconi. È la domanda chiave che per il momento non ha risposta. Grazie Luca Serafini. Grazie a voi, ciao. Grazie a Luca. Pier, dammi un tuo giudizio sintetico su quello che hai sentito di Seedorf. Se ti sembra che sia l'ultimo tentativo di lanciare un messaggio conciliante a tutto l'ambiente a partire da Gagliani. Sì, probabilmente è questo, ma insomma il livello di confusione nel Milan è totale, è veramente totale, da ogni punto di vista, mi sembra, dal punto di vista delle idee, in 3 mesi praticamente è stato sconfessato tutto il punto di partenza dell'arrivo di Seedorf, sicuramente non è stato aiutato, c'è un livello di confusione che si riscontra a ogni livello tutti i giorni, quindi questa è la realtà, insomma, e il campo non è altro che una dimostrazione, poi sai, delle volte il campo riesce a offuscare tutto il resto, no? Ci sono due piani paralleli, per esempio nella Roma dell'anno scorso che andava malissimo in campo, però c'erano dei segni di una società che si stava organizzando, stava comunque valorizzando dei talenti che poi ha venduto benissimo quest'estate. Qui mi sembra che siamo veramente all'anno zero, al punto zero, poi per carità la storia del Milan ce l'ha e quindi ha la possibilità più rapidamente rispetto ad altre società, approfittando del blasone, di potersi costruire un futuro. Mi sembra che in questo momento il livello di confusione a livello organizzativo generale sia veramente totale. Tra l'altro notavamo con Federico Casotti, intervista rilasciata da Seedorf, credo in un hotel, non so se a casa sua, assolutamente fuori da ogni contesto che possa essere sotto il controllo della società, non c'erano pannelli pubblicitari, non c'era divisa sociale. Guarda, allora, io non so se un completo rosso nero c'era, però diciamo che non era quello, sì, non era non quello so, griffato. Non so se anche questo è indice di un rapporto difficile tra Seedorf e il resto del mondo. Mi è parso più che un'intervista un vero e proprio flusso di coscienza da parte di Seedorf, difficile anche da incasellare. Un Seedorf che, come diceva giustamente Pierre, si trova ad assistere attorno a lui a una situazione di confusione di idee totale, per cui è costretto a difendere il proprio lavoro con la tenacia e l'orgoglio che abbiamo appena visto. È vero, dopo una sconfitta, ma anche dopo 16 punti in 5 partite, quando teoricamente un allenatore dovrebbe essere abbastanza tranquillo, ma anche poi il discorso degli obiettivi rivisti in corsa: prima va bene raddrizzare la barca, poi va bene il sesto posto, no, non va bene il sesto, vogliamo il quinto, che è palesemente irraggiungibile, e così via. Contribuisce ad aumentare la confusione e di conseguenza anche la difficoltà di Seedorf di lavorare serenamente dopo che i presupposti di gennaio chiaramente non erano dei più comodi per lui in ogni caso. Pier, ma secondo te ha un significato che anche questa intervista in realtà sia fatta fuori da Milanello? Fuori... Ma non lo so, anche perché mi risultava modestamente che Seedorf non facesse interviste one to one in questo momento, almeno questo è quello che l'ufficio stampa del Milan ha detto. Ma io credo che questo sia un pezzo del problema. È inutile che non lo raccontiamo, visto che lo conosciamo. Anche la cosa dell'altro giorno mi sembra che sia assolutamente, no, lo sfogo con Balotelli, un'altra situazione comunque secondo me che non ha fatto bene all'immagine del Milan, per cui lo posso vedere io dall'esterno, quindi mi sembra che ci sia un'evidente scollatura, un'evidente difficoltà di comunicazione. Poi non è il mio lavoro e quindi Seedorf fa un suo entourage, ce l'aveva anche da calciatore, se l'è portato dietro anche in questa occasione. Io so che in passato, in questi 3 mesi, c'è stato qualche problema anche con Mediaset o man mano con i vari giornalisti che venivano esclusi da questo cerchio magico. Certamente credo non sia un caso che questa intervista di Seedorf a Sky, questo sfogo, poi ce n'è un'altra parte che sentiremo con calma e di cui leggeremo, sia fatta fuori dal contesto della società. Hai parlato di Balotelli, dello sfogo di venerdì sera, ti faccio sentire il pezzo, quello che ha fatto più scandalo, quello con Marocchi, perché voglio sapere cosa ne pensi, te lo faccio sentire. Non so il motivo, insomma, probabilmente pensi che sia meglio giocare in questo modo, l'allenatore è già contento di quello che fai, però se tu riguardi le partite, vieni anticipato tante di quelle volte, perdi quei palloni, secondo me perché ti muovi molto poco. Chi sta parlando? Giancarlo Marocchi. Secondo me non capisci di calcio. Vabbè, non puoi non essere d'accordo con lui, ma insomma ne ha giocato. Non capisci di calcio, non sono d'accordo, non capisci di calcio, basta. Non sei d'accordo è un conto, non capisci di calcio è un altro. Zvonimir Boban. Te lo dico io, fidati. Pierre. Sì. Ma sì, no, non ti chiedo se Marocchi capisce di calcio o se ha vinto qualcosa o se ha titoli per parlare, perché parla il palmares per lui. Ma io penso che ci fu un famoso, si può dire scazzo, sì, l'ho detto ormai, tra Sacchi e Ibrahimovic qualche tempo fa, 2-3 anni fa. Intanto succedono queste cose. Qui io penso che la domanda sicuramente è una domanda scomoda, ma insomma non c'è stata mancanza di rispetto da parte di Marocchi. Era essenzialmente un consiglio. Io penso che Balotelli debba trovare un po' di serenità. So che è molto banale questo discorso, ma penso che nel momento nel quale lui smetterà di vedere nemici e approccerà le partite con un'allegria diversa, se questo succederà gli farà bene, e glielo auguro veramente di cuore, ribadisco il punto. Io da questo punto di vista voglio essere molto chiaro: io non sarò mai uno che guferà o che riderà sotto i baffi degli insuccessi di qualcuno, tanto più di un giocatore italiano talentuoso. Io spero veramente che lui possa crescere, e crescere tanto, e diventare un giocatore che anche nelle partite in cui non fa la differenza, perché lui l'altro giorno poteva non fare la differenza, non è che nessun giocatore della Serie A, nemmeno Messi, fa 40 partite straordinarie da 7 o da 8 in pagella. Ci sono anche le partite brutte, però anche nelle partite brutte devi stare in campo con un atteggiamento da giocatore che aiuta la squadra, cerca di evitare i nervosismi inutili. Sì, ci sono partite da 5 e mezzo, 6 meno. Il problema è che quelle di Mario si trasformano spesso in partite da 4, 4 e mezzo. Quando è entrato Pazzini, che chiaramente in termini assoluti ha meno colpi, ha un tiro meno forte di Balotelli, cioè, però è entrato un giocatore che è andato lì a prendersi delle punizioni, che ha lavorato per la squadra, che ha dato questo contributo. Magari Balotelli questa cosa già la farà la prossima partita, veniva da un buon match contro il Livorno, quindi non è che veniva da un periodo negativo in assoluto, però mi sembra che abbia questa variabilità di umore, veramente variabilità di umore che è enorme, e sulla quale io credo che lui debba lavorare, ma credo che debba lavorare psicologicamente lui. Penso che il problema vero sia problema psicologico, non mi permette di che rappresenta una vera incognita, perché il mese del mondiale poi è un mese difficile, come pressione mediatica ai gli occhi di tutta la nazione, le speranze. Poi tra l'altro Balotelli ci arriva da un uomo che dovrebbe avere sulle spalle il destino della nazionale. Io credo che Prandelli faccia bene a riflettere in queste ore. Un'ultima cosa, prego. Proprio in 20 secondi, che come sottolineavate prima, purtroppo le partite peggiori di Balotelli quest'anno sono state quasi sempre le partite con un alto livello di tensione addosso. L'altro giorno è stato fischiato dal minuto meno 30, cioè da mezz'ora prima che cominciasse la partita, sì, in riscaldamento, quale è uscito, no? E questo non è un grandissimo segnale, perché di solito insomma, anche i campioni un pochino quelli irregolari, però i campioni veri spesso riescono a trarre una reazione positiva dagli stimoli, dalle critiche, dall'ostilità del pubblico avversario, dalle pressioni della partita. Questa cosa quest'anno non sta succedendo tanto. Io credo che questa sia la cosa che preoccupa Prandelli, cioè il fatto che non è che Balotelli ha fatto 15 partite buone e 15 partite negative a caso, ha fatto soprattutto partite negative quando aumentava la tensione, e chiaramente il mondiale sarà un contesto di enorme tensione, di enorme pressione. Sì, rappresenta sicuramente una grande incognita, e non a caso oggi, ripeto, sui giornali si è aperto il tema. Osman dalla provincia di Milano, Osman. Sì, una cortesia, ho due considerazioni. Prego. Sì, due considerazioni da fare. Una, quando si parlava dell'aspetto psicologico sulla quale Balotelli dovrebbe, se vorrà mai lavorarsi, credo che sia fondamentale, ma credo proprio che sia fondamentale da questo punto di vista la sua storia, nel senso che la rabbia, o tutti i suoi atteggiamenti, a me pare che nascono veramente da una profondità di della sua storia, anche di bambino, se sì, vogliamo. Io non so se possiamo arrivare così in fondo, Osman, io mi accontenterei di una maturazione in campo. Prego, negli atteggiamenti. Ecco, la maturazione in campo, prego. Voglio dire, Balotelli ha un'età che è un calciatore, quindi non è uno studente che ha la sua età ancora, forse deve fare i primi passi nel mondo. È un calciatore che da 17 anni vive in un contesto di adulti, di responsabilità, sceglie in quale parte del mondo andare a lavorare, a vivere, e credo che questa maturità, alla sua età, un calciatore professionista l'abbia raggiunta e l'abbia già dentro di sé. Purtroppo le speranze, dal mio punto di vista, ne vedo poche. L'altro è un aspetto molto più profondo, però le due cose credo che così, queste sono le due considerazioni. Certo, che grazie Osman. No? Maurizio dalla provincia di Brescia, da Brescia anzi, Maurizio. Sì, buonasera. Prego. Buonasera, io sono un vecchio tifoso del Milan. Se mi è consentito, farei fotografare la situazione con quattro parole. Sì. La figlia del padrone sta distruggendo l'azienda. Sì, non credo sia solo quello il problema, Maurizio. Sì, io ne ho viste tante di situazioni di questo genere in aziende non calcistiche, e mi sembra che stiamo assistendo a un classico. Poi, ovvio, ci sono altri problemi. Sì, mi sembra che i problemi del Milan nascano prima dell'arrivo di Barbara Berlusconi sulla scena. Sì, sì, sinceramente sì. Sinceramente sì. Io non condivido questa ricostruzione. È chiaro che c'è stato un momento in cui, soprattutto il modo nel quale sono state portate certe critiche, in cui un certo tipo di elettricità è stata forse eccessiva e ha destabilizzato l'ambiente. La stessa scelta di Sedor, chiaramente avallata da Berlusconi padre, però è stata una scelta di getto, una scelta che alle 19.50, mi ricordo che ci sentivamo, io ero a Sassuolo, a Reggio Emilia, prima della partita nessuno avrebbe mai pensato che tre ore dopo ci sarebbe stato l'esonero. È stata una scelta abbastanza emotiva, dovuta alla tragedia di una partita completamente sbagliata, inevitabile, no? Ma emotiva. Quindi, diciamo, da questo punto di vista non è stata una scelta razionale da società con le spalle larghe che pondera fino in fondo. Quindi probabilmente un po' di questo entusiasmo giovanile, qualche colpo di testa di troppo e un'ingerenza in un'area strettamente molto tecnica come quella di Barbara Berlusconi lì è stata decisiva. Però secondo me è una ricostruzione questa qui un po' un po' di parte, io credo che ci debba essere. I problemi nascono prima, ma ne parlavamo anche con Serafini, bisogna anche capire, e da un po' di anni bisogna capire qual è l'interesse di Berlusconi nel Milan. Tutti convocati. Atletico Madrid che chiude in 10 per l'espulsione di Juan Fran, ma siamo in tempo di recupero. L'Atletico è avanti ancora 1-0 a Valencia, in questo momento a una mano e mezzo sulla Liga. Vince sempre anche il Manchester City fuori casa contro il Crystal Palace 2-0, e il Liverpool è sempre primo. Così rispondiamo a un amico che ci ha sgridato per il pessimismo di prima sull'esito della Premier, però da questo pomeriggio e dal 2-0 casalingo subito dal Chelsea di Mourinho, il Liverpool non è più padrone, carissimo Federico Casotti, del suo destino. Il problema è quello, il problema è che lo era fino alle 14.59 di oggi, esatto, e non lo è più. E adesso il problema è che deve guffare il Manchester City. Il Manchester City ha obiettivamente un calendario abbastanza alla portata, a parte la gara contro l'Everton. Se l'Everton è quello di ieri a Southampton, non rappresenta un avversario particolarmente insormontabile, non in assoluto, quanto per una squadra che sa di essere lanciata verso la conquista del titolo con le qualità del Manchester City. Peccato perché per il Liverpool, perché comunque rappresenta il Liverpool, questo Liverpool che sembrava così vicino a una vittoria in qualche modo storica, non ha mai vinto la Premier League. Noi gli facciamo il funerale perché presto, però è anche vero che la Premier League ci ha abituato a finali ancora più imprevedibili, a controfinali ancora più imprevedibili. Tanto quindi... Pier ha vinto l'Atletico Madrid. Pier, adesso recuperiamo la telefonata con Pierluigi Pardo. Marcello da Roma. Marcello, eccovi. Io Prego. Sono romanista, d'altronde voi siete schierati per Conte, per la Juventus. Noi siamo schieratissimi, Marcello, schieratissimi. Noi siamo l'ufficio stampa della Juventus. Prego, Marcello, sto scherzando, prego. Ma si vede. Si sente, ma comunque si sente. Niente di male, vi volevo solo far fare una riflessione. Sì. Un allenatore che viene dall'estero, viene in Italia e vede quattro cose: gli arbitraggi, il comportamento delle squadre satelliti, specialmente quella per esempio del Livorno, che il presidente dichiara apertamente di schierare una squadra, sì, ma anche l'Udinese, che storicamente è società vicinissima alla Juventus. Certo, e perché non c'è il Siena quest'anno? Ma il Livorno ha mezza squadra dell'Inter in realtà, quindi diciamo che il... Però prego, Marcello, sì. Noi lo facciamo finire, prego Marcello. Comportamento della giustizia sportiva, come hanno castigato Destro spacchettando, sezionando un intervento dell'arbitro, una cosa per me vergognosa. Se poi voi confrontate i derby che ha fatto la Juventus e la partita Torino-Roma, dove ha subito una vera rapina a mano armata. Insomma, ha ragione Garcia. Marcello, ti facciamo rispondere a Pierluigi Pardo, che è il capo degli Juventini di Radio 24. Pierluigi. No, ma non, tu non devi dire queste cose, la gente ci crede. Io non sono capo di nessuno, né degli Juventini né dei Romanisti. No, sono detto, questo è il punto di vista che circola a Roma. Cioè, al di là della polemica su Livorno che non schiera Paulinho in Juve Livorno, dell'Udinese che gioca così un po' morbida, il punto fondamentale è che a Roma si pensa che ci siano stati degli aiutini. Insomma, adesso io fin del campionato, chiamiamo Cesare, chiamate Paparezza, faremo la modalla di tutto il campionato. Sono 35 giornate, io la situazione complessiva non ce l'ho. Ribadisco, secondo me non è un campionato falsato, perché secondo me la Juve comunque ha una quantità di talento superiore alla Roma. Poi la Roma gioca un calcio meraviglioso, ma insomma complessivamente la Juve ha avuto una costanza di rendimento un pochino superiore. Questa è la mia idea, insomma. Poi veramente bisognerebbe lì giornata per giornata a vedere ogni singolo episodio, anche quelli più nascosti. Comunque Pier, lo diciamo, non siamo l'ufficio stampa della Juventus, così Marcello sta tranquillo, sta sereno e si gode questo finale di campionato. Pier, andiamo in Spagna. Filippo Maria Ricci, corrispondente da Madrid della Gazzetta dello Sport. L'Atletico ha vinto quanto della Liga? 70%, 60%, 40%, 80%? Dacci qualche 80, cifra. 80% direi. Due partite ancora, Levante e Malaga. Due vittorie ed è finita. Si va al Camp Nou per il Basiglio direttamente, per la, diciamo, per le feste, perché sarebbe già campione matematico. Record di punti nella storia dell'Atletico con questo ennesimo 1-0. gol di Raul Garcia, che in Italia forse non è tanto né conosciuto né apprezzato, però giocatore utilissimo, 17 reti stagionali, e così era uno degli ostacoli più duri che gli restava, e l'ha superato alla sua maniera. Ha detto anche psicologicamente, noi abbiamo raccontato questo pomeriggio invece la vicenda contraria del Liverpool, che sul traguardo è caduto, quasi caduto, poi vedremo come andrà a finire questa Premier League. Mi sembra invece che soprattutto di testa l'Atletico Madrid, che da qualche settimana è agli sgoccioli come forza fisica, abbia tenuto. Sì, però è lì, sono 6 partite che non prende gol, cioè voglio dire, poi uno dice tanto di Mourinho. Sì, vince 1-0, non prende gol. Ha fatto 3-1-0, 1-0-0 e 2-2-0 tra Champions e campionato, questo ti dice tutto. Beh, secondo me c'è una differenza sostanziale tra Rodgers e Simeone, perché dobbiamo dire a favore di Simeone che sta giocando anche la semifinale di Champions ed è arrivato in semifinale di Coppa del Re, insomma è una tonnellata di partite. Liverpool aveva solo la Liga, oggi l'ha buttata via malamente. Sì, l'ha buttata via malamente. Questo è così. Insomma, tra l'altro, col suo uomo simbolo che è Gerard. Assolutamente. Federico. Sì, ciao Filippo. Volevo sottoporti una considerazione. Penso che questa stagione renda giustizia in qualche modo al valore complessivo della Liga, perché l'Atletico Madrid fino a un paio d'anni fa, un Atletico Madrid lottare pari a pari con Real Madrid e Barcellona sarebbe stato impensabile, vista la superiorità delle due squadre. E ci metterei dentro anche magari Siviglia e Valencia, che stanno lottando per un posto in finale di Europa League. Nel complesso direi una stagione di rinascita per il calcio spagnolo, che eravamo abituati a considerare un po' semplicisticamente come un campionato scozzese allargato, sì, e senza la nebbia, ecco. Però sicuramente, però attenzione, perché in Europa League la Spagna è sempre andata forte, siamo noi che la snobbiamo, perché in fondo no, tanto adesso siamo addirittura quinti nel ranking dietro al Portogallo, che problema c'è, no? Qua invece i loro puntarelli se li sono andati a prendere e i trofei li hanno alzati due volte, l'Atletico Madrid appunto negli ultimi anni, la finale contro l'Atleti Bilbao. È chiaro che no, il cambio vero è la Liga, perché fino a due anni fa, ma anche solo fino all'anno scorso, era impensabile per l'Atletico lottare contro il duopolio. Quest'anno è chiaro, il Barcellona è un po' calato per tutti i suoi problemi, però il Real Madrid è una macchina da guerra e loro secondo me alla fine ce la fanno a tenerla dietro, e questo ha un merito eccezionale, perché bisogna vedere i soldi spesi e gli uomini in campo, insomma, sì, i famosi 120 milioni di fatturato dell'Atletico Madrid, mediocre, insomma, per quello che sono i nomi, cioè giocano anche ex italiani come Thiago e Diego Ribas. Sì, no? È un'anomalia. Veramente non lo conosce nessuno. È un'anomalia non solo in Champions per dove è arrivata, ma anche nella Liga, il fatto che si tenga dietro due colossi come Real Madrid e Barcellona. Grazie Filippo. A voi, ciao, ciao, ciao. Grazie Filippo Maria Ricci, ciao Pier, ti saluto. C'è il tweet di Balotelli, eh? Cosa ha scritto? Fa, 2 minuti fa ha scritto, è una foto al suo amico Anthony Uberti, Relax of Our Minds, c'è una tua foto tranquilla, insomma, lui fa un cenno, l'ho appena riguittato, fa Vabbè, un cenno ha fatto di, una domenica, di vittoria, una di domenica tranquilla. Grazie Piera, domani. È un video, magari è successo l'interfetta, è un video, vediamo che succede, 12 secondi. Al lago, faccio la telecronaca del video, tutto ok, non succede niente, tutto a posto. Ha avuto una bella domenica. Ciao Pier, a domani. Ciao, saluto, ciao, anche, ciao. Ringrazio Federico Casotti. Grazie a voi, buona serata. Gerre. E grazie, baci e pace bene a tutti.